Buonasera, sono qui con Abed, presidente della comunità palestinese, e a cui vorrei chiedere la sua esperienza per quanto riguarda la sua presenza in Palestina proprio nei giorni in cui c'è stato il 7 ottobre il fatidico attacco di Hamas. Che cosa ci puoi dire di la situazione? Te dov'eri innanzitutto? Esattamente, eri in Cisgiordania, immagino. Sì, buonasera a tutti che ci sono in ascolto. Effettivamente sì, è vero, sono stato la prima settimana dell'aggressione israeliana, insomma, a Gaza, io ero in Palestina, a Nablus. Purtroppo, come sappiamo tutti, che non è che la questione palestinese sembra a sentire in media che è nata il 7 di ottobre. Io vi racconto l'esperienza nostra, almeno come l'ho vissuta in questa settimana, e qui non è che è cambiato nulla per noi nel territorio occupato, in Cisgiordania, solo le cose sono aggravate, solo voglio sottolineare un fatto che io per poter tornare qua, perché ci dovevo tornare insomma in Italia, giustamente per lavoro, perché io avevo questi 10 giorni, volevo visitare la mia famiglia e mi sono purtroppo trovato chiuso in casa, perché come sapete, altro tutti dicono la Cisgiordania c'è l'autorità, c'è la pace e tutto il resto, assolutamente non c'è nulla di tutto questo, perché ancora noi viviamo sotto un'occupazione militare e loro sono tutti gli seri, non dopo il 7 di ottobre, ma anche molto prima. Siamo stati sempre chiusi e circondati nei nostri centri abitativi. Per dirvi, una città come Nablus è una città grande di 350.000 persone, c'è cioè Nablus provincia, che noi non potevamo, io personalmente, quando sono arrivato purtroppo non potevo nemmeno andare non a trovare la mia sorella che vive a Ramallah, che sono mezz'ora insomma di macchina, perché ce ne sono dei checkpoint e ci sono tanti limiti per noi che non potevamo passare. Se te c'hai più di 60, meno di 60 anni, assolutamente non ti fanno passare. E allora una cosa, le università sono chiuse, però dopo il 7 di ottobre le cose sono aggravate e sono stati restrittivi. Per dirti una, che a noi in Palestina siamo famosi dell'olivo, e il periodo della raccolta dell'olivo Era proprio parte questo. del primo di ottobre. Certo. E purtroppo fino oggi, a quest'ora in cui sto parlando, che la mia famiglia non siamo riusciti ad andare a raccogliere al campo, a raccogliere le nostre rive, perché evitato purtroppo non ci permettano di uscire, di entrare nei nostri campi. E non dei soldati, la cosa è triste dei coloni, perché ora come ora che una famiglia se ci prova certe volte, prende coraggio e vuole andare nel suo campo a raccogliere olivi, mezz'ora dopo vengano questi coloni armati, appoggiati purtroppo, una cosa triste, dai soldati. Venivano con le loro motociclette, con i cani, e ci lasciavano praticamente il cane a correrci dietro. E a questo punto cominciano a sparare e ci spaventa la gente, e ci cacciavano, insomma, cacciano la gente via. E ancora fino ora che sta piovendo in Palestina e abbiamo perso Il il raccolto raccolto delle olive. delle olive. Questo per dirti una. E poi Certo. Nablus ancora purtroppo è circondata da tutte le entrate, gli ingressi principali della città. Cercato di partire, di tornare, non è stato possibile. 3 volte ci ho provato di seguito per poter uscire. Ho preso un taxi e questo tassista mi ha portato di certe strade, non sono strade regolari. e correvo il rischio, vedendo una macchina passava di certe strettoie da una montagna all'altra, per poter arrivare al confine con la Giordania, per poter tornarci, insomma, qua in Italia, e purtroppo tre tentativi, alla terza sono riuscito a entrarci, a tornarci, insomma, a uscire dalla Palestina. E questa, essendo anche io, sono un cittadino palestinese con un passaporto cioè un passaporto italiano, che questo anche addirittura con la reciprocità tra l'Italia e Israele non mi prendono, non mi considerano nemmeno Capito, non un lo so. italiano né un Certo. palestinese, perché per loro purtroppo ormai, perché nessuno mai accusato Israele, potevano fare, loro sono i giudici e sono gli esecutori, e allora noi stiamo vivendo in un momento tragico. Questo in Cisgiordania, anche purtroppo solo nelle ultime 2 settimane a Nablus, a Jenin, ci sono più di 150-154 martiri, sono morti a mano di soldati, esercito israeliano, e più è quello che ci spaventa, perché questi sono come i cani sciolti, aggressivi, e questi sono i coloni, che sono quasi ormai più di 700.000 coloni che vivono in Cisgiordania. Sono contro il diritto internazionale la loro presenza in Cisgiordania. E tutto questo, una vita che ormai dura da tanti anni, soprattutto perché noi con il discorso degli accordi di Oslo si sperava e si pensava ci portava a un minimo di pace e di tranquillità, che doveva Israele ritirarsi. Invece, purtroppo, in questi 30 anni da dopo, insomma, l'accordo di Oslo, noi ci troviamo con tante cose peggiorate, con tante restrittive, con una politica che ormai decisa, votata con questo governo estremista, con tutti i nazifascisti, questi 2 ministri che ha a fianco il primo ministro israeliano Netanyahu, di Ben Gvir e Smotrich. Purtroppo questi sono 2 ministri, li dicono davanti a tutti quanti, li dicono: questa è Cisgiordania che fa parte di Israele, la grande Israele, e non dobbiamo e non vogliamo vedere nessun palestinese in questa terra. E purtroppo mi sembra anche che Netanyahu abbia consentito, forse lo era già anche prima, ai coloni di armarsi e di questo periodo in particolarmente, cioè specialmente in Cisgiordania si sente appunto di questi ammazzamenti dovuti proprio ai coloni che fanno queste incursioni. Io ho visto, penso o spero almeno, essendo con tutte queste poche notizie che noi ce le danno, almeno ce le fanno vedere in televisioni, però questa spero che tutti l'abbiamo vista, mentre Bnigvir lì ai coloni in Cisgiordania l'era messo su un tavolo con delle mitragliatrici e le consegnava ai coloni uno a uno. Ognuno le dava una Una. fucile e li armava e Mi benediva. Sì. le diva. E Una per dirgli benedizione. sì, la benedizione sua, per andare, vai, difenderti e uccidi, tanto nessuno che ti chiedi, perché purtroppo quando si tratta di un morto, si tratta di un palestinese Palestinese. morto, non c'è nessuna legge che ti può riportarti a un giudizio, o se al massimo te li portano, vieni dopo 4-5 giorni e ti Sì, lasciano andare via, scarcerato scarcerato. automaticamente. Basta vedere se tutti noi si ricorda del Bugrum, e quelli quando è la prima volta, questa è una cosa triste, che nessuno ha messo sotto luci quel villaggio di Hewara accanto a Nablus, quando hanno bruciato una città, un paesino, un villaggio palestinese, hanno dato nei fiamme case, Macchine. macchine, campi, e il resto purtroppo niente, nessuna, solo certi timidi accuse, o timidi magari ecco, parole di qua e di là della comunità internazionale. E noi viviamo in questo inferno sotto questo governo, insomma, Netanyahu. Ecco, la comunità internazionale non fa niente, cioè, abbiamo ormai capito che cioè, non c'è un'attività di blocco e soprattutto sul blocco del bombardamento che adesso ormai da più di un mese sta ammazzando, siamo a 10.000 morti bombardati a Gaza e più di 4.000 bambini. Sì, è vero perché come sappiamo benissimo che purtroppo la popolazione di Gaza sono quasi il 60% sono tutti Molto minorenni, giovani, molto minorenni, giovani, sotto i 18 anni. certo. E la condizione, l'intensità della popolazione insomma in una striscia di terra di quasi 365 km quadri con 2 milioni e È tanto. 300 mila di persone. Ormai è considerata quasi come un cielo, un prigione Una prigione a cielo a cielo aperto. aperto. Certo. E posso anche non esagero che dico ormai ora viene definita non è più prigione a cielo aperto, ora è quasi un cimitero Cimitero, a sì. cielo aperto. Effettivamente noi ora la nostra, ecco, richiesta, il nostro desiderio di poter, ecco, la nostra richiesta alla comunità internazionale, in particolar modo agli Stati Uniti d'America, all'Occidente, al paese, alla comunità europea, di intervenire a porre fine a questa aggressione israeliana perché purtroppo è vero, come mi hai anticipato te, che ormai siamo 11.000 morti e qui quasi il 40% sono bambini, il 30% adolescenti, donne e anziani. E questa è la nostra primaria cosa, la nostra richiesta di trovare orecchi, gente con cuori aperti, con la coscienza viva, e di dire basta, di fermare questo genocidio a mano di questo governo di Netanyahu. Purtroppo bisogna riscontrare che c'è molta ipocrisia perché Gutierrez aveva provato a fare un discorso, direi, pacifico, in quanto riconosceva che comunque questo tipo di, chiamiamola, di risposta da parte di Israele è, diciamo, esagerata, per non dire un'altra cosa. Siamo al limite del genocidio e ormai vediamo che però da parte di Israele, da parte di Netanyahu, non c'è nessuna intenzione di desistere da questo atteggiamento, anche nonostante le insistenze così blande però dell'America. Che cosa pensi quale possa essere, diciamo, in questo momento a chi rivolgersi? Io te li dico, insomma, nell'ultima settimana abbiamo visto, sentito quasi tutte le organizzazioni mondiali hanno cercato, gridando, di Certo. fermare questo genocidio, insomma, questa aggressione israeliana, perché in fondo loro lì, con le loro cacce bombardieri, sapendo stanno solo uccidendo dei civili, gente civile, Stanno bombardando nessuno anche di Hamas, gli ospedali. dicono di terroristi, nessun terrorista della. Posso capire perché purtroppo il loro ministro di difesa, come li chiamano, il nostro ministro della guerra, io lo definisco, lo chiamo. Tanto per loro siamo degli animali, cioè ha definito che siamo degli animali, non siamo più animali umani. Questa insomma La è definizione, una sì. definizione di un razzismo, di un nazismo, insomma, e il rifiuto, e credo non sono io solo come palestinese, la rifiuto, ma credo che ogni essere umano, Anche la società civile ormai ha anche la. dimostrato con tutte queste manifestazioni che questa è veramente una cosa fuori da. Assolutamente, però io torno a dire qui che noi siamo di fronte a un governo che si sente ferito perché Israele una volta si sentiva l'unica più potente, più tutto il resto. non aspettava di una resistenza di questo popolo che rimane ancora a dire no dopo questi 75 anni di occupazione. Hanno usato tutti i modi impossibili per farlo, insomma, ecco, fermare, cambiare idea. Volevano cancellarci, però noi non ci abbiamo altra scelta. Israele, a forza di 75 anni, 60, possiamo dire anche 76 anni ormai che stiamo vivendo in queste condizioni, noi non possiamo fare altro che resistere, perché la resistenza per noi è la nostra esistenza, è la nostra libertà. Noi non possiamo, con tutto il rispetto, a fare la fine dei nativi degli Stati Uniti d'America. Volevano cancellare il nome della Palestina. Basta io a vedere come le reazioni della comunità internazionale, dopo ormai siamo al 35° giorno, nel silenzio, a non poter fermare Israele, almeno una tregua per dare la possibilità a questa gente di raccogliere, di seppellire i suoi morti. Neanche 4 ore, e questo io non lo vedo, insomma, è giusto, perché ormai siamo arrivati nelle ultime notizie che ci arrivano ora a Gaza, o probabilmente lo sappiamo ormai tutti, che il check-in israeliano, non solo i cacciabombardieri stanno Continua. bombardando, buttando tante tonnellate di dinamite, di bombe su Gaza, stanno il cecchini anche usando a sparare su ognuno si muova nell'ospedale di Shafa, Sì, ed è rimasto tra i pochi ospedali che sono rimasti in funzione. Allora, io qui mi rivolgo al nostro presidente, almeno la chiedo per piacere, una sola volta voglio sentire il nostro presidente Mattarella a dire una sola parola, insomma, che ci può dare almeno una speranza. Io sentivo e ammiravo le sue parole quasi quotidiane, che rivolgeva, insomma, alla comunità internazionale per l'Ucraina. eh già, Perché noi siamo appunto. contro ogni tipo di guerra. Perché come mai nessun presidente, nessun ministro, nessuno che rappresenta le istituzioni in tutta la comunità internazionale avere il coraggio di alzarsi e a dire a Israele basta? Per amore del Dio, per amore dell'umanità, vero amore di questa gente che sta pagando forte, gente innocente che Certo. sta morendo. Ci abbiamo più di 4.800 4.800 bambini, bambini sono morti, è una sono cosa. tutti da 3 a 4, da 4 a 5, da 1 a 5 5 anni, anni, anche neonati, infatti, anche non è visto, neonati. è una cosa. L'ospedale, noi da 35 ospedali ora sono in funzione, o anzi a metà. Sono 16, Non hanno energia elettrica, le non manca hanno tutto, tutto, le manca appunto. acqua, vivere, insomma, il cibo, Il il carburante. carburante, l'elettricità e non di più anche. Gente che no, versa, siamo arrivati al punto che i nostri bambini si scrivano il loro nome sulle braccia perché almeno quando vengano trovati morti, per sapere, insomma, da che famiglia, Esatto. da chi genitori, da dove vengano, da dove. Cioè, questo succede nel 2023 e credo che ci vuole una coscienza così, io non lo posso, non trovo la parola giusta a definire il morale della comunità internazionale che ancora va avanti senza poter dire una sola parola a Israele, solo e soltanto Israele ha il diritto di difendersi. Però il palestinese che vive da 75 anni, io ho mai sentito un termine del genere. E questo, a dire la verità, ci fa molto male, cioè, a noi palestinesi. Beh, insomma, anche ora anche, diciamo, la società civile si sta ormai da diverso tempo orientando, appunto, facendo manifestazioni, perché questo è veramente un genocidio che non, è inaccettabile, inaccettabile, è inaccettabile che non si alzino delle voci. Abbiamo solo sentito la voce di Erdogan, abbiamo sentito poco più appunto quelle chiacchiere di Biden, ma chiacchiere, perché poi a questo ci sono stati invece molti soldi che vengono dati, molti dollari che vengono comunque dati a Israele per gli armamenti. Allora, arriviamo al punto di Netanyahu, ti chiedo, secondo te, siccome sembra che ora ci sia qualcosa, dal punto di vista politico, l'America non sembra non accettare più questo atteggiamento di Netanyahu, che cosa pensi? Che Netanyahu venga destituito prima che finisca questa mattanza, scusa l'espressione, genocidio forse è l'espressione più giusta, lo lasceranno fare per poi destituirlo, perché sembra che le indicazioni siano queste, non ne vogliono più, anche dall'interno di Israele ci sono delle reazioni, ci sono delle manifestazioni contro, in parte dovute anche al fatto degli ostaggi, perché molti israeliani vogliono che i loro ostaggi vengano salvati e tornino a casa sani e salvi. Certo, io innanzitutto qui colgo l'occasione per salutare tutti i popoli europei che sono stati non soltanto ora, in tutto lungo tutti questi anni che sono stati al nostro fianco. Io questo noi è l'unico che ci ha dato sempre coraggio di andare avanti. I popoli europei sono stati sempre al nostro fianco, purtroppo meno le istituzioni. Io credo queste pressioni che orgogliosamente che abbiamo visto decine di migliaia in tutte le piazze delle grandi città europee a scendere probabilmente con la loro forza, le loro voci, e li sono arrivati a qualche orecchio. E ora c'è qualche sbaraglio. Io non sono pessimista, sono ottimista. Io spero che ci sarà qualche sbaraglio di fermare questo genocidio che stiamo vivendo. Per quanto riguarda Netanyahu, il presidente israeliano, non è ora che la gente è contro di lui. Noi abbiamo vissuto ormai, già sono da 6-7 mesi, le strade di Israele sono a manifestare contro di lui, perché lui è una persona corrotta, una persona indesiderata, e quasi ormai ora gli ultimi sondaggi gli danno l'86% degli israeliani non le vogliono più come primo ministro. Il fallimento, perché ormai ha capito, spero anche, dico, che gli israeliani hanno capito che non possono, almeno questa drammatica situazione in cui stiamo vivendo tutti e due, sia la colpa è di Netanyahu e dei suoi ministri che le stanno accanto, perché hanno capito che questo un uomo non porta altro a un fallimento, a un e scuro destino per tutto il Medio Oriente. E perciò io dico, anche ho visto ultimamente qualche leader europeo in cui accusa anche Netanyahu, hanno avuto il coraggio di accusarli, perché Israele era una come la mucca sacra in India, intoccabili, non dovevamo mai dire neanche illuminare il nome di Israele. Israele, come l'ha definita, che io non sono molto d'accordo con lui, però non le posso nemmeno accusare un giornalista che scrive sull'editoriale La Repubblica. Ieri l'altro l'ho visto su La 7, gli facciamo pubblicità, ha definito Israele la perla del Medio Oriente, la fonte della democrazia del Medio Oriente. Io questo mi si piace per lui, credo, sì, Giannini purtroppo. Allora, detto questo, io posso capire che il signor Giannini, anche il suo lavoro, deve vivere, deve difendere il suo stipendio, però credo che un minimo di avere un po' di coscienza, un po'. Non ci siamo. Mi si piace per lui perché ormai sta dicendo cose che lui, nemmeno lui, è convinto di ciò che sta dicendo. Probabilmente è proprio così, sì. Allora è così, purtroppo, come tante altre. Io ho citato questo perché la definita prima si parlava di democrazia, la più democratica del Medio Oriente, ora la berla, voglio dire, un po' proprio ora poi le è piaciuto in questi istanti, questo momento triste. Io anche ormai, come dicevo prima, che tutti i leader mondiali quasi ormai hanno convinto, e più il presidente israeliano anche ormai ora contro Netanyahu e dice aspettiamo che finisce la guerra e viene sostituito. Ieri l'ex primo ministro israeliano Ehud Olmert ha dato tutta la colpa a Netanyahu di tutto ciò che sta accadendo e ha dato la sua opinione, la prospettiva per un domani tra Palestina e Israele. Ha detto noi dobbiamo ritirarci, queste sono parole dette da Olmert, dobbiamo ritirarci e fare, creare, insomma, lavorare per un Stato indipendente palestinese. E lì noi lo accettiamo questo Stato palestinese, come questo che io certe volte dico, come può essere Israele sputano sulle Nazioni Unite e in cui hanno preso il loro certificato di nascita. Le Nazioni Unite ha dato il certificato di nascita allo Stato di Israele. Ora il numero uno più accusato da Israele, le Nazioni Unite. Sicché noi palestinesi invece no, noi stiamo aspettando la nostra, il nostro certificato di nascita del nostro Stato, dalle Nazioni Unite, perché ancora noi ci crediamo nel diritto internazionale, nella umanità, perché se noi effettivamente cominciamo a fare diversamente del rispettare il diritto internazionale, noi siamo in una giungla. Ora ormai ci sono dei segnali che siamo in una giungla, però noi, la maggior parte di tutti noi, dobbiamo combattere e questi selvaggi per poter, insomma, tornare alla nostra umanità, perché ci ha definito il ministro della guerra israeliano che noi palestinesi siamo degli animali umani. Una cosa, questa è una cosa nel 2023, sempre, del paese diamanti, della democrazia. Non è possibile sentire. È un po', la vedo, un po', lascio anzi il giudizio a chi le ha sentito, insomma, che ha ascoltato. Certo. È così. Grazie Abed. Grazie a tutti voi, buona serata e auguri a tutti, perché in fondo noi siamo ottimisti di sicuro, altrimenti siamo ritirati, ci siamo nascosti, ogni palestinese vive bene in dove sta, però noi abbiamo deciso, come tutti gli esseri umani, e noi siamo sicuri che stiamo pagando forte il prezzo. Però non possiamo fare diversamente, perché la libertà, signori, come ci hanno insegnato anche gli italiani, la libertà non ha prezzo. Non ha prezzo. E il prezzo della libertà è così caro che noi ci teniamo e vogliamo, insomma, a prescindere del prezzo, arrivare alla nostra autodeterminazione. E noi lo speriamo con te. E grazie a tutti gli italiani, perché siete un popolo meraviglioso che siete stati sempre al nostro fianco. Grazie, a parte governo. Grazie. No, ma tanto c'erano tanti altri.